Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. È l'ultima della settimana, l'ultima eclettica in compagnia di Giulio Caperdoni, poi settimana prossima ancora, tutti i giorni, fra le 19 e le 20. Sarà così anche per tutta l'estate. Andiamo con la nostra formula di musica, cinema e letture. In questo caso le letture abbandonano i dischi di Lou Reed assieme ai Velvet Underground ed entrano invece negli anni in cui Lou Reed faceva dischi solo a suo nome. Vizioso. Mi colpisci con un fiore, lo fai in ogni momento. Oh tesoro, sei così vizioso. Vizioso, vuoi che ti colpisca con un bastone, ma tutto ciò che ho è un plettro per chitarra. Oh tesoro, come sei vizioso. Quando ti vedo arrivare, tesoro, voglio solo correre via lontano. Non sei il tipo di persona vicino alla quale vorrei stare. Quando ti vedo camminare per la strada, ti calpesto le mani e ti stritolo i piedi. Non sei il tipo di persona che desidero incontrare. Oh tesoro, sei così vizioso, come sei vizioso. Vizioso, ehi, mi colpisci con un fiore, lo fai in ogni momento. Oh tesoro, sei così vizioso. Vizioso, ehi, perché non ti ingoi delle lamette da barba? Devi pensare che io sia una sorta di lama Gaia, ma tesoro, sei così vizioso. Quando ti vedo arrivare, devo correre. Non sei un tipo a posto e di certo non sei molto divertente. Quando ti vedo camminare per la strada, ti calpesto le mani e ti stritolo i piedi. Non sei il tipo di persona che vorrei incontrare, perché sei vizioso. Tesoro, come sei vizioso. Questa era, ovviamente, Vicious di Lou Reed. As blossoms through the cinder, the teachers will be pupils again. If just the weather takes the butter off the words, and all the secrets I've always blessed, as what I try to pledge myself to not forget. Of the water. Australia, the weight, the blame. Have you heard? Never heard. I didn't realize you were such an outdoorsman, Carl. Asian assault? Molly, let me explain. That one was in the wrong section of the video store. Oh, you're gonna lie to my face. I thought it was a kung fu movie with Bruce Lee. Okay, Pacific Rim Job. All right, well, that one I kind of know about. Oh, Beijing Bang Bang? Carl, is this what our marriage has come to? Lies and all these Chinese fetish videos? I'm just curious. I admit, Molly, that I was into Asian porn for a little while. It was just a phase. Thank you. Ho voluto iniziare questo volume numero 5, l'ultimo della settimana di Eclettica, andando a riprendere dagli ultimi mesi quelle che ritengo le prove italiane più interessanti. Una relativamente recente, i mesi sono pochi, l'ultimo degli Toys Orchestra uscito per Urtovox, con cui ho aperto il volume. Il secondo brano invece è una autoproduzione da parte della band salentina dei Muzak, che penso sia uno dei brani che più caratterizzano questa stagione. Quando si ricorderà la 13ª stagione di Eclettica, sicuramente questo pezzo dei Muzak non potrà non venire in mente. Ed ora ci spostiamo negli Stati Uniti per ascoltare una novità di Orenda Fink. Ormai sembra che le Azure Ray si siano completamente sciolte e quindi le carriere soliste delle due componenti del gruppo stanno assumendo una rilevanza diversa, maggiore. Orenda Fink aveva formato un gruppo di nome Art Bell, ma ha deciso di rinominarlo in Art in Manila. Uscirà il 28 di agosto per Saddle Creek, quindi rimane fedele sempre alla stessa etichetta, con un album dal titolo Set the Woods on Fire. Noi ci ascoltiamo di Abomination. Una giornata perfetta, bere sangria nel parco e poi più tardi, quando fa buio, tornare a casa. Proprio una giornata perfetta, dar da mangiare agli animali nello zoo e poi più tardi anche un film e poi a casa. Oh, è una giornata così perfetta, sono contento di averla trascorsa con te. Oh, è una giornata così perfetta, mi fai venire voglia di restare con te. Mi fai venire voglia di restare con te. Proprio una giornata perfetta. I problemi messi da parte, turisti solitari. È così divertente. Proprio una giornata perfetta. mi ha fatto dimenticare me stesso. Ho pensato di essere un altro, una persona migliore. Oh, è stata una giornata così perfetta. Sono contento di averla trascorsa con te. Oh, così perfetta questa giornata. Mi fai venire voglia di restare con te. Mi fai venire voglia di restare con te. Raccoglierai ciò che hai seminato. Questa era Perfect Day di Lou Reed. Thank you. Hello. Shh, shh, hold on. Hey, Carl, it's Neil. Did you actually throw away your porn collection? Look, Neil, I'm having a dinner party. I'm coming to get it. Go to Starbucks, be back! Gentle grace, sweet vanished pleasure. Oh, you kill me silently, pretending innocence, but silently kill. Rip me down and cut me slow. Whispering me the sweet flesh song, cold, cold, cold, silently, in a dear embrace. Come to my heart, take and lilies from my grave. On a fine sunny day. Gentle grace, sweetheart infliction. Oh, sick pins in a yellow sun, protesting innocence, but suddenly kill. Rip me down. Quasi la fine, ormai è arrivata quasi la fine, ma solo della prima parte, non preoccupatevi, ci sono ancora 30 minuti per chiudere la settimana di Eclettica. Ci siamo avvicinati a questa conclusione di parte di Eclettica con Juan Mordecai, The Flesh Song, il brano appena ascoltato, e prima ancora Junior Boys. Chiudiamo invece con quello che è l'ultimo singolo della formazione tra punk e new wave, proveniente da Vancouver in Canada, You Say Party, We Say Die. Questo è il nome della formazione, il pezzo invece si intitola Monster.